Buongiorno a tutti, buona domenica mattina e benvenuti alla quarta delle nostre lezioni di jazz, oggi per la serie dei ritratti di jazz, con un titolo scelto non a caso, Riscoprire Satchmo. È un'altra parola messa non a caso, la rivoluzione musicale di Louis Armstrong. Io credo che abbiamo un problema con i classici, e cioè credo che quando parliamo di classici facciamo un'operazione di livellamento, di normalizzazione, smussiamo gli angoli, smussiamo la forza di musicisti che hanno profondamente cambiato la musica, in questo caso la musica, ma potremmo fare il discorso anche in generale per l'arte, hanno cambiato la musica e in realtà quando poi noi da una certa distanza storica li osserviamo come musicisti del passato, di cui abbiamo consapevolezza piena, ormai completa, acquisita della grandezza, del loro contributo all'arte, quando in un certo senso andiamo poi a metterli sul piedistallo o peggio ancora in una nicchia, buoni, lì, tranquilli, li abbiamo in un certo senso privati della loro carica radicale, della loro carica rivoluzionaria. Considerare un artista un classico è come dire, va bene, hai dato il tuo contributo, questo contributo è acquisito, questo contributo è assodato, sei un grande, con la G maiuscola, ti metto lì, stai buono lì e nessuno ti tocca più. E si impedisce in questo modo, secondo me, di cogliere non solo la forza originaria di quello che noi consideriamo un classico, ma anche di considerare la forza con cui quel presunto classico è ancora legato al nostro presente, cioè il modo in cui ci può parlare e il modo in cui ancora può influenzare, raccontare, farci comprendere e modificare il presente. Cioè, una notevole espressione che ha utilizzato il grande videoartista Bill Viola, forse lo conoscerete, uno dei più grandi artisti, videoartisti contemporanei. C'è stata una mostra qui a Roma memorabile qualche anno fa, Palazzo delle Esposizioni. Lessi un'intervista a Bill Viola in occasione di quella mostra. Lui aveva studiato storia dell'arte a Firenze e come tutti gli studenti trovava un po' pesante dover confrontarsi con i grandi maestri del passato, con questi monumenti indiscutibili che però poco gli dicevano. Poi lui comincia la sua carriera e racconta che dopo un po' di tempo è tornato a Firenze, è entrato in un museo e a un certo punto, dice lui, ha avuto una specie di rivelazione, cioè che quelli che vengono chiamati i vecchi maestri in realtà non sono altro, non erano che i radicali del loro tempo. Ecco, questo secondo me è un aspetto che dovremmo recuperare, provare a metterci in una prospettiva non di distanza storica, ma di attualità, di presenza con questi maestri del passato, metterci nel loro passato e scoprire tutta la loro forza. I vecchi maestri erano i radicali del loro tempo. Mi sembra una espressione bellissima, anche perché poi Bill Viola da questa consapevolezza ha fatto scaturire anche tutta la sua successiva riflessione artistica, che come sapete è di grande potenza anche la sua, ed è una frase che io ho scelto anche di mettere in esergo al mio libro di storia del jazz, quindi si tratta anche di una sottilissima forma di marketing che io sto adottando alle spalle di Bill Viola. E questa è un po' l'operazione che vorrei fare oggi con voi, con Louis Armstrong. Vi dico subito cosa non sarà questa conversazione su Louis Armstrong. Non sarà un racconto di tutta la sua carriera, non ascolteremo necessariamente tutti i suoi capolavori più importanti o famosi, magari non li ascolteremo integralmente, perché sono, appunto, sono dei classici, sono noti, sono disponibili. Chi dovesse conoscerli di meno avrà comunque nel corso di questa conversazione gli spunti per poter andare ad approfondire. Mi interessa invece scoprire con voi alcuni aspetti dell'arte, della persona che vedremo, Louis Armstrong, che ci parlano ancora con grande forza, però facendo l'operazione che suggerisce Bill Viola, cioè mettersi così nei panni, entrare nella macchina del tempo e entrare in quel passato e scoprire attraverso quel passato, leggendo nei segni, la forza radicale e rivoluzionaria, come ho indicato nel titolo di questa conversazione, di questa lezione, della musica di Louis Armstrong. Louis Armstrong, vorrei semplicemente ricordare un dato biografico, è nato nel 1901 a New Orleans, è morto nel 1971, per molto tempo, per inciso, e forse in qualche fonte trovate ancora la data di nascita sbagliata, che era il 4 luglio 1900, in realtà lui è nato il 4 agosto del 1901, ed è nato a New Orleans. Noi dedicheremo una prossima lezione di jazz, non mi ricordo più quale, forse la seconda di... la prima o la seconda di gennaio, a perché il jazz è nato a New Orleans e non a New York, quindi sul cos'è il crogiuolo culturale di New Orleans da cui sorge il jazz, è materia che tratteremo in una prossima lezione su cui non mi soffermo, ma diciamo che in questo crogiuolo culturale Louis Armstrong cresce come un ragazzino di strada. Questo è un aspetto su cui torneremo alla fine. Louis Armstrong è letteralmente un menino de rua, è uno sbandatello avuto da una ragazza di 16 anni, da un padre di passaggio, diciamo così, da una ragazza che s'arrangia nella vita facendo mille mestieri, compreso qualcuno meno nobile, e a 16 anni questa ragazzina ha questo bambino che sgambetta per strade, una parola grossa, nel fango, del quartiere più povero, nero, di New Orleans, quello che poi lo stesso Woody Allen, ha fatto un lapsus perché lo usa Woody Allen nel suo ultimo film, lo stesso Louis Armstrong cita in un suo Back O' Town Blues, il retro della città, così si chiamava questo quartiere, e lo si sente questo blues nei titoli di testa del nuovo film di Woody Allen, Blue Jasmine. In questa situazione di estrema povertà, Louis Armstrong aveva, diciamo, due o tre possibilità. Uno, quello di morire da ragazzino di qualche terribile malattia. Due, quello di essere ammazzato da qualcuno in violenza di strada. Stiamo parlando letteralmente del ragazzino scalzo che fruga fra i rifiuti per sopravvivere. Oppure riuscire a farcela con l'aiuto della comunità, sia ebraica, sia italiana, sia afroamericana, nella quale ha modo di vivere. E questa è la terza possibilità. In realtà l'infanzia e l'adolescenza di Louis Armstrong, oltre a essere segnate da una graduale scoperta della musica, sono anche segnate da una serie di disavventure biografiche, non ultima quella di essere entrato a 12 anni in un riformatorio perché ha celebrato il Capodanno sparando per aria con una pistola, questo per farvi capire il livello, diciamo, anche di violenza di strada nella quale era immerso. E però in questo riformatorio Louis Armstrong ha modo di incontrare un insegnante che si chiama Peter Davis, dai modi a dir poco militareschi, ma che gli insegna a suonare uno strumento che aveva già avuto fra le mani, e cioè la tromba. Nella Colored Waves Home, in questa casa di correzione per ragazzini, c'è una banda, vedete Peter Davis, il suo maestro, è qui in primo piano, proprio dietro di lui, in alto, vedete c'è una freccetta nera, quello è il tredicenne Louis, con il suo caratteristico grugnetto, diciamo così, che sta imparando a suonare la cornetta, che è il tipico strumento da banda, non la tromba, la cornetta, all'interno della banda. Questa è una famosa fotografia, molto bella, è una delle pochissime, forse l'unica foto, credo, di Armstrong ragazzino, poi ne abbiamo altre con la mamma, e la sorella è invece più grandicello, e è bella confrontare questa foto con una foto fatta circa 20 anni dopo, quando Louis Armstrong, al posto di Peter Davis, lo vedete qui al centro, torna a New Orleans con la sua band e si unisce alla orchestra di questi altri ragazzini. Peter Davis questa volta è l'uomo in alto a destra, lo vedete, sotto quella scritta, che è manoscritta da Armstrong stesso, E Louis Armstrong Teacher scrive. E poi ci sono altre indicazioni su altri amici che evidentemente erano lì quando lui era un ragazzino. Ecco, qui vedete l'uomo di successo, notate come è vestito, che è passato dal riformatorio dove era entrato per sparare per aria al successo musicale nei primi anni 30, quando è uno dei musicisti più popolari degli Stati Uniti. Questo per dirvi che il cuore di Louis Armstrong ha sempre battuto al ritmo della musica di New Orleans. Anche quando lui è andato via, ha fatto in modo di tornarci più volte, perché è lì che sono le fondamenta della sua musica e della sua cultura. In realtà poi Armstrong lasciò New Orleans nel 1922, aveva quindi 21 anni, abbastanza tardi, per andare, come tantissimi altri musicisti, fu l'ultimo in realtà a muoversi, verso nord, verso Chicago. Lo aveva chiamato il suo grande maestro e suo idolo, King Oliver, ed è a Chicago che decolla la sua carriera professionale. Torneremo sugli anni di New Orleans, ma intanto vorrei dirvi una cosa, diciamo, di metodo, che spiega anche il prossimo ascolto che stiamo per fare, il primo ascolto. Io credo che per comprendere a fondo, per esempio, la forza del cambiamento innovativa di un artista, è bene cercare di capire anche il contesto musicale nel quale questo artista si muove. Cioè, un suggerimento: se siete abituati ad ascoltare Beethoven, per non dare per scontata la grandezza di Beethoven, ogni tanto fate un salutare bagno nei contemporanei di Beethoven. Non è sempre piacevolissimo, però a un certo punto lì uno si accorge che la grandezza non è qualcosa di ovvio o di scontato. Se tu ascolti con attenzione la musica dei contemporanei, poi capisci quale può essere la forza innovativa, per esempio, di un personaggio come Beethoven. Allora, per comprendere la forza innovativa del discorso di Armstrong, dobbiamo capire qual era la musica che si faceva a New Orleans e a Chicago nei primi anni 20, e quindi comprendere una prima idea fondamentale. Il jazz nasce come un'arte collettiva, cioè in cui si suona tutti insieme contemporaneamente. È un'arte polifonica. Se qualcuno di voi ha familiarità con la musica classica, è un po' come il mottetto 4 e 500esco, in cui tante voci si intrecciano contemporaneamente, dove non c'è una melodia che spicca e l'accompagnamento, che invece appartiene a una fase successiva della storia della musica colta, almeno. Il jazz è così, è una musica in cui la melodia è in un certo senso affogata in una complessa polifonia, che è anche poliritmia ovviamente, accompagnata da questo swing della sezione ritmica, dove la bellezza della musica sta nel fatto che tutti suonano insieme senza mai urtarsi, c'è un grande equilibrio delle parti. Armstrong è cresciuto dentro questa cultura della polifonia, in particolare della polifonia della Creole Jazz Band del suo maestro King Oliver. Questa era la Creole Jazz Band, una delle più grandi band del primo jazz, che dominava la scena chicagoana dei primi anni 20. King Oliver è il secondo da destra in piedi, Louis Armstrong è a una quarantina d'anni, Louis Armstrong ha 20 anni di meno, con la sua cornetta in mano, è praticamente la seconda cornetta del gruppo, ed è quello al centro. La donna che vedete al pianoforte scusate, la donna che vedete al pianoforte è una giovane pianista con degli studi classici alle spalle, che si chiama Lillian Hardin, che diventerà di lì a poco la seconda signora Armstrong. La prima moglie in realtà fu una prostituta di New Orleans con la quale Armstrong ebbe una relazione, diciamo così, proprio le classiche sbandate da ragazzino. Un matrimonio durato pochissimo, mentre Lil Hardin avrà un ruolo importantissimo, lo potrete leggere su qualsiasi biografia di Armstrong, un ruolo importantissimo nella carriera di Louis, soprattutto tra gli anni 20 e i primi anni 30. Noi adesso ascolteremo una prima versione di un brano che fu scritto da King Oliver, registrato a Chicago nel 1923, in cui sentiamo cosa vuol dire il jazz collettivo. Cioè, sentirete le due cornette, il trombone, il clarinetto e la sezione ritmica costituita dal pianoforte, il banjo, il contrabbasso che ha in mano Bill Johnson non lo si sente a causa della... Non, lui non lo suona perché a quell'epoca i mezzi di registrazione non consentivano di registrare il contrabbasso, quindi lui suona il banjo, perciò ha i due strumenti in mano. E la batteria, tra l'altro il clarinettista e il batterista sono fratelli, Johnny e Warren Dodds, Honor Reed Tree al trombone e Lil Hardin e Bill Johnson al contrabbasso. Bene, vi dicevo, ascolteremo questo brano scritto da Oliver, è una specie di ragtime, suonato tutto polifonicamente, sentirete verso la fine dei break in cui tutti si fermano e Oliver e Armstrong fanno delle interiezioni scritte, preparate, non improvvisate. Questo è, allora, il brano si intitola Weather Bird Rag e ce l'ascoltiamo. Ovviamente il suono è quello di un disco del 1923, fatto con un restauro formidabile, però fate un piccolo sforzo di fantasia per cercare di immaginare come suonasse dal vivo questa musica con un suono reale, come se fossero qui e non con questo suono un po' gracchiante e di una registrazione primitiva. Ora, senza raccontare troppo della biografia di Armstrong, vorrei farvi ascoltare lo stesso pezzo in una registrazione del 1928. È un disco spettacolare, uno dei più grandi consegnati da Armstrong alla storia, in cui duetta con il pianista Earl Hines. Non abbiamo foto dell'epoca, quindi ho messo una foto dove vedete a sinistra Armstrong, Earl Hines al centro, l'uomo in piedi e il cantante Billy Eckstein. Non abbiamo foto dei due insieme quando erano giovani, ma Earl Hines è stato per il pianoforte quello che Louis Armstrong è stato per la tromba, un profondo innovatore. Si sono incontrati nel 1926, grosso modo, 26-27, più 27 se non ricordo male, e un giorno in studio di registrazione, mentre suonano delle cose, Armstrong propone a Earl Hines di suonare in duo, semplicemente loro due, che era una cosa che non si era fatta quasi mai in studio di registrazione, questo vecchio pezzo, che tra l'altro Earl Hines non conosce. Armstrong glielo insegna un po' al piano, un po' alla cornetta, gli dice guarda fa così, fa colà. Hines è un musicista un virtuoso, spettacolare, trascendentale, con un orecchio fuori del comune e anche delle dita discretamente lunghe, come si vede, è un pianista eccezionale, molto giovane, ma di Pittsburgh, ma dotatissimo, e mettono insieme questo duetto. Perché voglio farvelo sentire subito? Perché, senza sapere cosa è successo in mezzo, e ci torneremo fra poco, c'è un abisso fra questo jazz collettivo che abbiamo sentito di King Oliver e lo stesso pezzo suonato da questi due musicisti. Vi prego, questo è un pezzo che dovremmo sentire 6-7 volte, gli potremmo dedicare un viaggio nel capolavoro e magari in futuro potremmo farlo. Vi prego, se l'ascoltate per la prima volta, di concentrarvi almeno, diciamo, su due aspetti. Uno è il modo in cui interagiscono i due strumenti, è una novità assoluta. E il secondo aspetto è la ricchezza ritmica di questa musica. Immaginate che al posto delle note ci siano dei tamburi, come se fosse un gruppo africano. O immaginate al posto delle note dei suoni del pianoforte e della tromba un gruppo rock. Qui c'è già tutto il ritmo popular, rock, jazz, blues, di tutta la musica del Novecento. C'è una libertà anche individuale che in quella musica collettiva non c'era. Qui ci sono due individui che costruiscono autonomamente il loro discorso e lo mettono insieme. Oggi è ovvio, facciamo come dice Bill Viola, andiamo a vedere il radicalismo del passato. Questi due lo fanno con naturalezza per la prima volta. Questo è il risultato. La novità più grossa fra questi due brani è che da un lato c'è una logica solistica, cioè i musicisti si esprimono non collettivamente ma come individui che costruiscono un discorso. Voi direte, certo, lo so, l'assolo è quello. La notizia che vi do oggi è che il concetto di assolo, che voi pensiate a Eric Clapton o a Miles Davis, l'ha inventato Louis Armstrong. Quindi l'idea che ci sia un musicista che si inventa un discorso autonomo, che ha una sua logica interna, punto numero uno. Punto numero due, questa logica interna si fonda sull'abbattimento delle tradizionali barriere melodiche e quindi si fonda su una specie di energia virtuosistica, quasi barocca. Armstrong riesce ad abbattere le barriere della polifonia perché suona più veloce, più forte, in modo più esteso e in maniera ritmicamente più varia di tutti gli altri. Alla fine prevale e riesce a costruire dei discorsi sensati, in questo caso lo fanno tutte e due, insieme, intrecciandosi in questo modo complesso, come avete sentito, e lo fa per la prima volta lui, dando l'esempio anche a pianisti come Erlines, non solo ai trombettisti. Lo fa su uno strumento, la cornetta, qui era una tromba, prima abbiamo ascoltato una cornetta, lo fa su uno strumento che era deputato, per esempio nella banda o nella musica sinfonica, a essere lo strumento melodico, quello che fa la melodia, quello che canta. Qui non c'è canto. Qui avete sentito un musicista che fa dei fuochi d'artificio con lo strumento. E c'è quindi questa forza virtuosistica che rompe le mura dell'equilibrio dell'ordine musicale e bisogna inventarsi un nuovo ordine musicale. Cos'è successo fra il Weatherbird Rag del 23 e questo del 28? È successo che Armstrong, in maniera molto naturale e istintiva, ha gradualmente cominciato a costruire questo discorso autonomo. Questo discorso autonomo avviene in diverse fasi. Io vorrei farvi vedere un documento piuttosto eccezionale, anche se abbastanza divulgato da qualche tempo, che riguarda questo brano che si chiama Cornet Chop Suey, registrato nel 1926, la seconda delle date che vedete lì sopra. Per molto tempo Cornet Chop Suey è stato considerato il primo, come posso dire, il primo gradino, il primo passo, il primo risultato che Armstrong ottiene improvvisando per creare un discorso virtuosistico autonomo. Lo fa con la cornetta, ma questo discorso immaginate che possa valere per qualsiasi altro strumento, perché poi questa concezione ha influenzato chitarristi, sassofonisti, trombonisti, pianisti, eccetera, eccetera. Per molto tempo si è pensato che questo fosse tutto frutto del genio istintivo, creativo di Armstrong. Poi, qualche anno fa, come direbbe Super Pippo, ta-da! Viene fuori un manoscritto. Questo manoscritto è di pugno di Armstrong, risale al 1924, cioè a 2 anni prima della registrazione, e ci mostra 2 cose sconcertanti. Primo, Armstrong sapeva scrivere la musica, il che nel nostro razzismo strisciante è anche inconsapevole. Ma come un negro? Ma come viene da New Orleans? Ma come un analfabeta? Ma come un jazzista? Scrive la musica? Certo, Armstrong aveva imparato a scrivere la musica quando era adolescente. E ci sono anche degli aneddoti che lui racconta di idee che aveva quando andava a letto e poi improvvisamente si doveva alzare perché doveva scrivere su un pezzo di carta un'idea che gli era venuta. Imparare a scrivere la musica era anche una sorta di tutela legale, perché questo gli consentiva di, per esempio, depositare questo pezzo al copyright. Questo è il motivo per cui sappiamo che è del 24, perché sappiamo che è stato depositato alla Library of Congress nel 1924. La seconda novità incredibile è che Cornet Chop Suey, che sarebbe un pezzo apparentemente tutto improvvisato, si è scoperto circa 60 anni dopo la sua registrazione che non è affatto improvvisato, ma è tutto scritto, come se fosse una composizione di Beethoven. Io adesso ve lo faccio ascoltare. Tra l'altro è un pezzo appunto dominato totalmente dalla cornetta di Armstrong, che ha un carattere concertistico, perché le prime battute che vedete, le prime 4, ecco, soffermiamoci solo su quelle prime 4 battute. È bello fare l'analisi non sulla trascrizione fatta su un software, ma con la musica scritta direttamente da Armstrong. Anche se non leggete la musica, non importa, se guardate il primo rigo, noterete che la melodia scende gradualmente e poi risale. Non solo, ma scende a gradini e poi risale a gradini. Questo è un modo di fraseggiare che non è tipico della cornetta o della tromba, è un modo di fraseggiare tipico del clarinetto. Armstrong andava così veloce, suonava così forte sulla cornetta, che non stava dentro le regole del suonare la melodia, lì non c'è la melodia, lì ci sono dei passaggi di bravura e di agilità che lui copiava dal clarinetto. Quindi da uno strumento dove fare passaggi di bravura e di agilità è più semplice. E noi sappiamo che questa cosa lui la faceva già da quando era ragazzino, diciamo così, gli scappava il fraseggio veloce. E domina in maniera completa l'esecuzione musicale, che nella parte centrale sentirete c'è un breve assolo della moglie, Lil Hardin, al pianoforte, e il confronto è quantomeno imbarazzante in termini di swing, di suono, di invenzione, cioè c'è una specie proprio di buco, di abisso, tant'è che quando poi lui rientra la musica improvvisamente riprende vita. C'è un'idea qui che è appunto la cornetta prevale, un'idea quasi da concertismo classico, ed è occupa tutto lo spazio in virtù di questo virtuosismo. Perché Armstrong si è scritto tutto questo? Perché non solo l'idea gli è venuta così e ha avuto bisogno di scriversela, perché non solo questo pezzo che sembra jazz improvvisato, sorpresa, abbiamo scoperto che è tutto scritto, ma perché le idee che lui sta mettendo in campo sono talmente audaci che per non perderle e per non fallire nell'esecuzione se le scrive. Cioè, vi sto dicendo che il terreno sul quale si sta muovendo è talmente nuovo ed impervio che forse le cose è meglio prepararsele e scriversele per non sbagliare la prossima volta. Partiamo dal penultimo rigo. Clarinetto. È impressionante questa occupazione di tutto lo spazio musicale. Questo vuol dire che, tra l'altro, Armstrong sta letteralmente estendendo i limiti espressivi e tecnici dello strumento. Arriverà un momento in cui i didatti, per esempio, della tromba saranno costretti a riscrivere i manuali con le estensioni, per esempio, dello strumento e le possibilità tecniche, perché questo ragazzotto senza casa e senza famiglia di New Orleans ha letteralmente espanso le possibilità dello strumento. Ora, qui Armstrong si è dovuto scrivere tutto per costruire il discorso autonomo e solitario, ma Armstrong nel corso degli anni 20 si è posto altri problemi, e lo ha fatto in particolare in una serie di registrazioni, da cui è venuta quella che abbiamo appena ascoltato, con un gruppo di amici che sono gli stessi della Creole Jazz Band che abbiamo visto prima. Qui il trombonista è Kid Ory, Armstrong, Johnny Dodds, Lil Hardin, Johnny Sensire. Si chiamavano gli Hot Five, che qualche volta sono diventati sette, Hot Seven. Questa è una foto pubblicitaria della metà degli anni 20. La serie dei dischi degli Hot Five sono un po', che ne so, come il canzoniere di Petrarca per la letteratura italiana, cioè sono l'ABC del jazz moderno. È un gruppo che è esistito esclusivamente in studio di registrazione, non hanno praticamente mai fatto concerti dal vivo, e nel corso tra il 1925 e il 1928 hanno registrato numerosi dischi che sono praticamente creano le basi su cui poggia poi tutto il linguaggio del jazz, almeno fino al bebop e oltre, da un punto di vista ritmico, melodico, armonico e della forma. Soprattutto sono il laboratorio nel quale Armstrong sperimenta varie soluzioni, perché uno dei problemi fondamentali del solismo, visto che Armstrong sta facendo sbocciare questa nuova forma d'arte, suonare un discorso da soli, autonomi, mentre gli altri ti accompagnano. Allora il problema è: come do coerenza a questo discorso autonomo, a questo discorso solitario? Certo, lo posso fare per esempio con dei motivi, prendendo dei motivi che vengono espansi, e questa è una cosa che Armstrong fa. Ma a me preme sottolineare un aspetto più generale: come faccio a evitare di essere incoerente, a dare la sensazione, come dicono i jazzisti, che ho raccontato una storia? Questo è un problema che si pone qualsiasi musicista che improvvisa, che, ripeto, che si tratti di un chitarrista rock, di un tastierista fusion o del giovane cornettista Louis Armstrong. Il problema è: io adesso attacco l'assolo, come costruisco un discorso coerente che arrivi ad una fine e che il pubblico percepisca come coerente? Armstrong è il primo che si è posto questo problema. E ne ha dato, nel corso degli anni delle registrazioni con gli Hot Five, un ventaglio di soluzioni. Mica ne ha data una, ne ha dato tante di soluzioni. Noi adesso ne esploriamo due insieme. La prima soluzione è, diciamo così, come modelli di assolo, quella che potremmo chiamare il modello a scalata, che è ancora oggi quello più popolare in tutti i generi di musica pop. Cioè l'idea che tu cominci nel registro medio, più vai avanti, più sali di registro. Chiunque di voi qui dentro suoni la chitarra rock sa che è anche il modo migliore per impressionare gli amici, magari inarcando la schiena quando si arriva sugli acuti, e più, non lo faccio di profilo se no si vede la pancia, ma insomma, più sali di registro, più crei tensione, fino a raggiungere il climax, il culmine, e quando hai raggiunto quel culmine praticamente il pezzo può finire. Questo modello di scalata Armstrong lo usa diverse volte, ma sicuramente il pezzo chiave di questo tipo di approccio è il famoso Potato Head Blues, registrato nel 1927 con gli Hot Seven, che Woody Allen, tanto per citare, visto che abbiamo già citato Woody Allen, alla fine di Manhattan elenca fra le 10 cose per cui vale la pena di vivere, e io mi ci metto... Non fra le 10 cose, ovviamente, mi ci metto fra... aderisco all'idea... Questa non me l'ero preparata, le altre battute sono tutte accuratamente preparate, ma questa no. Aderisco a questa idea, sì. Io tanto aderisco che direi di ascoltare Potato Head Blues per intero e poi andiamo a isolare l'assolo di Armstrong. Anche perché ascoltandolo per intero potete fare un utile confronto fra l'assolo di clarinetto di Johnny Dodds, meraviglioso, che c'è all'inizio, a metà, e l'assolo di Armstrong che c'è alla fine, perché l'assolo di clarinetto non è altro che un bel assolo, ma è come una parte di collettivo, di uno abituato a suonare in collettivo, come nel primo pezzo abbiamo sentito di King Oliver, lasciato da solo. Non ha una logica di sviluppo. È un andare su e giù, con un suono bellissimo, ritmicamente affascinante, ma è, come dire, un po' generico. Invece, quando entra Armstrong, sentirete proprio l'idea di una retorica, ecco la parola chiave, l'idea di una retorica, di un costruire il discorso secondo una certa logica. Cominciamo con l'ascolto. Clarinetto. Occhio! Pian piano sale. Pezzo sensazionale. Ho una cara amica e una grandissima insegnante di canto, Diana Torto, che fa studiare questo assolo, la trascrizione di questo assolo a tutte le sue allieve, tutti i suoi allievi di canto, proprio come assolo di canto. Un dettaglio, riascoltiamo solo l'assolo, perché vorrei farvi notare un dettaglio pazzesco. Armstrong non solo si trova a dover affrontare questo lungo assolo in totale solitudine, e non c'è dubbio, mi ci gioco tutte e due le mani, che lui se l'era preparato a casa, perché si sente che c'è una, come dire, una struttura, una sicurezza di chi si è preparato il compito a casa per poterlo poi affrontare. Vi ricordo ancora una volta, facciamo l'operazione alla Bilviola, mettiamoci nei panni di questo radicale del suo tempo. Lui è l'unico in questo momento al mondo a tentare un'operazione simile nel linguaggio musicale. Non può rifarsi a nessun altro, non ha altri modelli, se non la propria immaginazione. Va veramente senza rete. Ma addirittura è talmente audace che decide di togliere anche quel poco di protezione che ha. E qual è questa protezione che toglie? L'accompagnamento. Cioè fa l'assolo senza accompagnamento, tecnicamente si dice in stop time, cioè con la ritmica che marca solamente degli accenti e lascia un sacco di pausa, di vuoto in mezzo, e lui usa questo vuoto non solo per scalare, avete sentito, il registro della tromba nel corso del discorso, ma soprattutto per tirar fuori una ricchezza di invenzioni ritmiche. Io vi suggerisco, io di solito ai miei allievi canto questo assolo, adesso qui non lo farò, ma canto questo assolo solo da un punto di vista ritmico. Ta ta ta ti da da da da ta ta. Ta ta ta ta da di da. Ta ta ta ta ta da da da ta. Ta ta da da da di ta ta. Pa pa pa pa pa pa pa pi. Pa pa pa pa pa pa pa pa pi pa pa pa pa pa pa pi pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pi pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pi pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. No no no no no no no no, silenzio. Davvero. Un radicale del suo tempo. Ora potete applaudire. Un altro modello di assolo, completamente diverso, ve ne propongo solo due, ma in realtà i dischi degli Hot Five, tra l'altro i dischi degli Hot Five sono fantastici da ascoltare perché contengono anche molti fallimenti. Cioè contengono per esempio assoli dove Armstrong si sente che ha delle idee pazzesche e non riesce a realizzarle. Sbaglia note, osa dei salti assurdi, quindi si sente proprio questa specie di energia, di fervore a tentarle tutte e a volte anche a fallire. Non fallisce certamente nel tipo di assolo a ondate di cui che estraiamo, non ascoltiamo l'esecuzione intera, da Strutting with Some Barbecue. Di nuovo qui l'accompagnamento è in stop time, ma più serrato, ci sono meno buchi, meno vuoti. Cosa intendo per l'assolo a ondate? Invece di andare progressivamente verso l'acuto, qui Armstrong va su e giù continuamente. Verrebbe da dire, come anche qui è un modello ripreso tantissimo nel jazz, tante volte, è un modello che si trova anche moltissimo negli assoli rock, cioè l'idea che le frasi salgono e scendono in maniera anche abbastanza regolare. Ogni tanto toccano un culmine, a volte un culmine sull'acuto, a volte un culmine sul grave. Non dimentichiamoci che ci sono anche degli effetti di cascata, diciamo così, del grave. Tutto suonato, tra l'altro, con un virtuosismo che nessun trombettista al mondo poteva raggiungere e con una naturalezza e una bellezza logica e melodica senza pari. Una osservazione prima di ascoltarlo sullo strumento. Forse qualcuno fa confusione fra la cornetta e la tromba, in effetti non l'abbiamo mai precisato. La cornetta è uno strumento più piccolo, con più ritorte e un piccolo corno. Quindi avete presente il corno, quello sinfonico, no? Ecco, immaginate un piccolo corno che però poi c'ha la campana dritta davanti invece che essere laterale. La cornetta era lo strumento della banda, quindi Louis Armstrong è cresciuto suonando la cornetta. La tromba invece era lo strumento sinfonico, era lo strumento d'orchestra. Quando Armstrong, a un certo punto Armstrong, non lo sappiamo bene esattamente, tra il 26 e il 27, ha deciso di poggiare la cornetta e di non suonarla mai più e di imbracciare la tromba. Qui sentirete la tromba. Perché? Perché la tromba, essendo lo strumento da teatro, essendo lo strumento nobile, consentiva ad Armstrong di proiettare una diversa immagine di sé. Cioè, non sono più il musicista popolare che suona lo strumento da banda, ma sono un uomo di teatro, sono un virtuoso, sono un grande solista che suona lo strumento nobile, quello superiore. Quindi, lasciando per sempre la cornetta e passando alla tromba, non solo ha influenzato, perché poi un attimo dopo tutti i cornettisti sono passati alla tromba, ma proprio tutti, e ha trasformato lo strumento classico, che, diciamoci la verità, da un punto di vista solistico era grosso modo fermo ad Haydn, e lo ha fatto diventare quello che noi sappiamo oggi essere, cioè uno degli strumenti più espressivi e virtuosistici in musica, e al tempo stesso ha, come dire, cambiato, gli ha permesso un cambiamento di status. Torniamo al modello a ondate di Strutting with Some Barbecue. Anche questo è un assolo copiatissimo, è ancora in giro un musicista che lo va suonando spesso, che è come Lee Konitz, che più volte, per esempio, ha riproposto nota per nota questo assolo, sia con ensemble, sia da solo, in varie situazioni. Prima l'assolo di clarinetto. Di trombone non sa di niente, non è neanche una sola. Quattro note. E poi? Eccetera. Ora, e chiaramente Armstrong tutto questo non se l'ha inventato da solo, da qualche parte deve aver preso delle idee. Come scopriremo quando parleremo di New Orleans era un crogiuolo di culture, di musiche. Una degli elementi chiave era la lirica, l'opera italiana, il canto lirico in generale, e Armstrong è stato fin da ragazzino un profondo appassionato e conoscitore di lirica. Ascoltava musica lirica in qualsiasi circostanza, non sono riuscito a trovare una foto dove lo si vede negli anni 50 andare in giro con un antenato dell'iPod, che è una valigia così alta, che si apriva. Era uno stereo portatile, ci aveva le casse, il giradischi, e lui tutto orgoglioso mostra questo aggeggio enorme che lui si portava dietro per potersi ascoltare in albergo, in camerino, i dischi di Enrico Caruso, di Maria Callas e di tutti i grandi cantanti. La lirica era, come dire, veramente un punto di riferimento. Noi adesso vedremo alcuni di questi aspetti. In particolare c'è un celebre disco di Louis Armstrong, che è una composizione di King Oliver, che si chiama West End Blues. È stata registrata lo stesso giorno di Weather Bird, il duetto con Airlines, il pianista che sentite Airlines. West End Blues, adesso non so neanche se farvelo ascoltare poi per intero, magari vediamo alla fine o passiamo alla slide successiva, però vi devo far sentire questa celebre, perché veramente troppo famosa, detto fra me e voi, se c'è qualcuno qui dentro che non ha mai sentito West End Blues, torna a casa, apre Spotify o YouTube e l'ascolta per intero, perché è uno dei brani dell'ABC del jazz. E West End Blues comincia con una celebre cadenza di tromba, su cui si sono cimentati molti musicisti. Pensate che Charlie Parker la citava durante i suoi assoli, e uno che si diletta a suonarla ogni tanto, per esempio in duo con Franco D'Andrea, è proprio Enrico Rava. E questa cadenza, per chi non se la ricordasse, non l'avesse mai sentita, suona così. Ecco, un blues lento che comincia con questa cascata barocca trombettistica, una cosa che non si era mai sentita nella storia della musica. Il blues è una musica contadina, lenta, malinconica, invece comincia con questo fuoco d'artificio trombettistico. Questo fuoco d'artificio trombettistico, ovviamente Armstrong se l'era preparato molto bene, perché dentro, soprattutto nella seconda parte, che non esamineremo, ci sono un sacco di frasi che lui stava già suonando da anni, quelle più virtuosistiche, lui ce l'aveva sotto le dita e le stava rimuginando da tempo. Ma l'inizio, in realtà, l'inizio è ispirato ad una grande cantante di cui Armstrong aveva i dischi, una grande cantante dell'epoca che era popolare all'epoca quasi quanto Enrico Caruso, Amelita Gallicurci, e in particolare da un disco che si chiama La Villanelle di Eva Dell'Acqua, la cui melodia fa così. No, scusate. Mi sa che ho fatto un piccolo pasticcio con la slide. No, ascoltate, la recupero così, ve la faccio ascoltare così. Ora vi faccio sentire, attaccati, Armstrong. Scusate. Ok? Di nuovo. Vi prego di notare che sono uguali anche le tonalità. Cioè, non è che lui ha preso questa frase, ha scelto la stessa tonalità. Siccome è tardi, salto l'ascolto, diciamo, di Western Blues, e vediamo che attraverso le citazioni entriamo nel mondo di Armstrong, cioè Armstrong assorbe tutto quello che può, e non solo lo assorbe con questo suo orecchio formidabile, ma lo restituisce. Cosa assorbe? Arie d'opera, abbiamo detto, a volontà, adesso vedrete, di tutti i generi, musica popolare, altri pezzi jazz, canzoni, motivetti da strada, ed è Armstrong appartiene a quella categoria di jazzisti che io chiamo i citatori compulsivi. C'è Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sonny Rollins, Horace Silver, gente che costruisce metà dei suoi assoli con materiali altrui, citandoli continuamente in una specie di gioco umoristico che spesso è un accumulo continuo di fonti che, ovviamente, se riconoscete, vi consente di stare al gioco e di divertirvi. Nel nostro caso noi cercheremo di cogliere queste fonti per capire la ricchezza dei riferimenti di Armstrong. Allora, noi andiamo ad ascoltare i due chorus di assolo di un disco degli anni 30 che si chiama Dinah. Come ho detto, non parleremo della carriera di Armstrong, qui siamo con un'orchestra, non ne sono più gli Hot Five, non ci interessa l'assolo. Allora, mentre lo ascoltiamo, vedrete sullo schermo i brani musicali che lui via via cita. Dove non vedete apparire dei titoli, vuol dire che sta inventando delle sue frasi. Ci sono perfino delle frasi che inventa lui, oltre a quelle che cita. Thank you. Ecco, non ho aggiunto de uci cuci. Deucicucci merce che lui suona, Deucicucci dance che suona alla fine. Avete visto, sono 1, 2, 3, 4, 5 più il sesto che manca in due chorus di Dinah. Praticamente metà dell'assolo, due terzi dell'assolo è fatto di citazioni e di queste citazioni ce n'è almeno una che è il quartetto del Rigoletto che lui butta lì nel break. Come se fosse più naturale di fraseggi jazz. E visto che siamo ancora nel centenario Verdiano, insomma, ci fa piacere. Armstrong è emerso non solamente come trombettista nel corso degli anni 20, ma anche come cantante, e qui c'è uno degli aspetti più radicali della sua arte. Se Armstrong è stato un rivoluzionario con la tromba, con la voce lui è stato ancora di più. Possibile? Sì, ancora di più. La dico grossa. Armstrong ha inventato il canto pop del Novecento. Prima di Armstrong, c'è un prima e dopo Armstrong. Mettiamola così. Prima di Armstrong si impostava la voce. Dopo Armstrong, ognuno canta con la voce che ha. Prima di Armstrong c'era un ideale di voce. La voce deve essere impostata in un certo modo, deve essere bella con un certo timbro. Dopo Armstrong, ognuno canta con il timbro che ha, che tu ti chiami, Bob Dylan o Ella Fitzgerald, canti con la voce che hai, non la imposti. Prima di Armstrong si cercava di rispettare la melodia il più possibile, dopo Armstrong io faccio della melodia quello che voglio. E questo è uno degli aspetti più importanti, perché questo vuol dire ricomporre la melodia e ricomporre anche il testo. Non solo, Armstrong ha anche portato alle estreme conseguenze qualcosa che c'era già nella cultura afroamericana, lo scambio di ruoli fra lo strumento e la voce. Io suono lo strumento come se fosse la voce e canto come se fosse uno strumento. In particolare lo scat singing, cioè quel cantare sillabe senza senso, non è stato inventato da Armstrong, ma diventa uno dei marchi di fabbrica del suo stile, grazie a un pezzo del 1926 che si chiama Hibis Gibis, con il quale, peraltro, fatemelo dire come nota a piedi pagina in un linguaggio fiorito, Armstrong ha preso per il culo il mondo intero, perché qualcuno è andato da lui e gli ha detto: ma come tu canti queste sillabe senza senso, bibba, duba, da, da, dice, ma come ti è venuto in mente? E lui: sai, ero in studio, è cascato lo spartito, mentre registravo, non mi ricordavo le parole della canzone, ho improvvisato così. E il mondo ci ha creduto. Quindi ha fatto bene Armstrong. Sappiate che questa storiella, che Armstrong si deve essere inventato ridacchiando, è stata presa sul serio per decenni. Chi di voi frequenta la letteratura jazz sa che non sto scherzando, purtroppo. Lo scat che cos'è? È un modo per giocare ritmicamente con le sillabe, con vocali e consonanti, di cui Armstrong, peraltro, rispetto alle quali Armstrong ha dei suoi privilegi, dei suoi gusti, per esempio usa molto ba, da, con la A o le labiali tipo B o le dentali morbide di questo tipo. Poi vi ricorderete, se avete in testa il suono di Armstrong, che più tardi lavorerà molto sulla S, per esempio, spesso arricchita da un formidabile vibrato. Io vorrei farvi sentire un disco, questa volta per intero, sì, del 1928, dal titolo così umoristicamente erotico, che non traduco, e ascoltate questo disco, è pazzesco. Armstrong fa con la voce le stesse cose che fa con la tromba, anzi arriva un punto che vi dicherò col dito, dove fa delle cose ritmiche che con la tromba non aveva mai osato fare, e le fa con la voce. Tutto quello che lo circonda non è alla sua altezza. L'assolo di clarinetto è interessante, ma il trombone è un disastro, il pianoforte non ne parliamo. Lui ormai è il futuro e tutti gli altri, che sono pure suoi carissimi amici, non riescono a stargli dietro. C'è un altro punto con un break di tromba che vi dicherò col dito, proprio verso la fine, in cui sembra Dizzy Gillespie. (Susurra) a ondate. Occhio. L'assolo di trombone è un disastro, non esiste. Il chitarrista era Lonnie Johnson. Ci sono pochi esempi veramente così radicali di uso della voce. Siamo nel 1928, nessuno è in grado di usare la voce in questo modo, di immaginare delle frasi melodiche. Sapete che questo modo di cantare poi ha avuto un'influenza enorme su tutto il Novecento. Ci hanno lavorato Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, non necessariamente cantando scat, come poi ha fatto anche Ella Fitzgerald, ma proprio ispirandosi a questo aspetto. Ma c'è un elemento ancora più radicale, e questo accade quando Armstrong comincia a cantare delle canzoni. E qui veramente entriamo in un territorio pazzesco e vorrei scoprirlo con voi, in dettaglio. Prendiamo un esempio, gli esempi potrebbero essere tanti, a me è caro particolarmente questo. Hoagy Carmichael, un grande compositore, quello che ha scritto Polvere di Stelle, Stardust. Lazy River è una canzone del 1930, questo è il testo, e il testo non ve lo sto a tradurre parola per parola, ma insomma è una celebrazione tra l'ironico e il serio diciamo, di un paesaggio pastorale del sud, di un fiume pigro con gli alberi, l'ombra del vecchio albero, e tutto questo, come dire, caccia via i brutti pensieri e fa venire dei pensieri d'amore. Blue skies, everyone's in love, how happy we can be, up a lazy river with me. Cioè, se tu sei su questo fiume pigro con me. La melodia è molto poco cantabile. In realtà è una melodia che Carmichael, alla quale deve aver pensato come una melodia per strumento. Comunque Carmichael stessa l'ha incisa nel 1930, vi faccio familiarizzare con la melodia cantata dal suo autore. Up the lazy river by the old mill bone, that lazy, lazy river in the noonday sun, lingering in the shade of a kind old tree, dream a dream with me of the lazy river where the robin song awakes a bright new morning. You can loaf along. Blue skies up above, everyone's in love. Up that lazy river, how happy you can be. Up that lazy river with me. Okay? Ora la sentiamo la versione completa di Louis Armstrong registrata un paio d'anni dopo. È un pezzo di una forza e di una inventiva oltraggiosa, davvero oltraggiosa, perché intanto Armstrong si mette a scherzare, a parlare con l'orchestra, mentre l'orchestra fa questo temino in sottofondo. Non vi anticipo, sentirete, come una scena di spettacolo. Qui Armstrong sta diventando non solo un cantante, un trombettista, ma anche un intrattenitore, un uomo di spettacolo che dialoga con l'orchestra. Poi sentirete Armstrong che canta il testo. Canta? Allora, fa una serie di cose che vi anticipo. Fa a pezzi i suoni delle parole. Per esempio il modo in cui pronuncia river. Il modo in cui inserisce delle interiezioni nel corso del testo. Il modo in cui elimina delle frasi. Se non ricordo male, l'ultimo verso viene cassato. Il modo in cui ripete delle parole, il modo in cui letteralmente liquefa il suono delle parole, in che cosa? In suono. Non è interessato al significato delle parole in questa fase, a lui interessa il suono, e questo suono può essere continuamente manipolato. C'è qualche problema? Sì, con i cellulari accesi, nonostante abbiano detto che più volte. Vabbè, c'è chi non può fare a meno, eh. Chiameremo un dottore. Quello che volevo dirvi è questo, che, per cortesia, volevo dirvi è questo, che a un certo punto, quando ha smesso di cantare Armstrong, imbocca la tromba e diventa un cantante, una cantante lirica, perché sta nel registro di soprano. E suona un assolo di tromba spettacolare, non più virtuosistico, ma fatto di note lunghe, non più baroccheggiante, ma di suoni controllatissimi, dei glissandi vocali pazzeschi, e diventa una sorta di Maria Callas. Notate, il disco dura meno di 3 minuti. Quello che sarebbe sufficiente a stabilire la carriera di un solo, di un musicista in un solo di questi aspetti, viene riassunto in questi 3 aspetti in una sola persona: l'intrattenitore che sentite all'inizio, un cantante di un'originalità, di un radicalismo estremi, e un trombettista come non ce n'è nessuno al mondo. Sono tutte e 3 la stessa persona. Questo è lui. Uno humor incredibile. E ora fa pezzi la melodia. Sentite lo scherzo ora. And the lady be my love now. Oh, you dog. Boy, if I ain't ripping this evening, I hope something. Prima. River. Oh, you river. Oh, you dog. Oh, you river. Look out there, Charles Alexander. Swing out there on him, I reserve, boy. Qualcosa di sensazionale, questo scat pigro, è veramente l'uomo che avete sentito cantare, è quello che poi suona la tromba, cioè ci sono, mentre in Hotter Than That sono, si capisce che sono la stessa persona, qui sono due stili completamente diversi, sono due mondi espressivi diversi, in uno c'è questo lirismo, la quintessenza del lirismo trombettistico, di là c'è questo questa fanghiglia verbale, perché il testo viene ridotto a una fanghiglia verbale. Ora, è chiaro che c'è una componente che non è solo del cantante, del trombettista, ma di un uomo di spettacolo completo. Sul suo passaporto non aveva scritto musician, c'era scritto entertainer, un uomo di spettacolo totale. E noi fortunatamente abbiamo per esempio dei documenti video dei primi anni 30 in cui vediamo all'opera quest'uomo di spettacolo, il più formidabile dei quali, vi farò vedere un estratto, è un film fatto in Danimarca nel 1933 a Copenaghen. All'interno di questo film c'è un finto concerto, c'è il pubblico in teatro che applaude e però l'orchestra sta realmente suonando la sua musica. Ascoltiamo Dinah, che abbiamo ascoltato poc'anzi, in disco, e vediamo com'era Armstrong quando guidava la sua orchestra. Un uomo di spettacolo totale, pieno di humor, molto serio, perfettamente padrone di tutti i suoi mezzi, vi ricordo che qui ha 32 anni, carico di energia e innovativo come trombettista e come cantante. The next number we're gonna swing for you is one of the good old favorites. That's Dinah. Dinah. Look out, Devon. Are you ready? Look out. Anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know. Show to me, Dinah, to take God's blessing. We love the city's gazing to the eyes of Dinah Lee. Baby, every man wants a high, shake with fat palm. Cause my dynamite, change your mind. Baba, this is your deal. Don't you want to touch your China, man? I'll have a little line of woman. Oh, Dinah, Dinah, oh, Dinah. Thank you. That's all there is. Pensate che un anno dopo questo gruppo, così come avete visto con questo repertorio, suonerà a Torino, sarà la prima apparizione in Italia di Louis Armstrong e il recensore di quel concerto si chiamava Massimo Mila. C'è un problema in quello che abbiamo visto, cioè molti hanno accusato Armstrong di essere un uomo di spettacolo che mette in gioco dei cliché del nero allegro, sorridente, buffone, mai critico, sempre, come dire, ossequioso ai gusti di un pubblico che lo vuole un po' giullare, un po' clown. Beh, questa è un'idea un po', secondo me, ambigua, che, sulla quale Armstrong ha giocato in maniera molto, con grande consapevolezza. Intanto sappiate che quello che Armstrong faceva sul palco come intrattenitore era un misto di studio calcolato e di intuito, di sapere, di sapienza di uomo di spettacolo. Aveva un modello su come ci si comporta su un palco, questo modello era Bill Robinson, un grande intrattenitore nero che lui aveva visto dal vivo a Chicago quando era ragazzo, molte volte, da cui aveva capito che cosa voleva dire fare il tempismo, avere la battuta al momento giusto, muoversi in un certo modo sul palco, essere nero a volte davanti a un pubblico bianco, fare un certo tipo di battute. Tutto questo l'aveva assorbito guardando gli spettacoli di Bill Robinson, che era un maestro del genere. E poi aveva questo, l'avete visto, cioè quando si muove, questo humor, questa energia assolutamente spontanee e autentiche. Ora, il cinema, ci torneremo su questa cosa del cinema tra breve, ma ha fin dall'inizio sfruttato l'immagine primitiva di Armstrong, cioè del nero primitivo, e c'è un documento, cioè, scusate, c'è un corto particolarmente oltraggioso in apparenza, dal punto di vista razzistico, che è questo Rhapsody in Black and Blue del 1932, da cui estraiamo un frammento. La cornice è questa, cioè un negro sfaccendato che sta a casa, vessato dalla moglie, che a un certo punto si addormenta perché ha bevuto troppo e sogna di essere un improbabile re del paradiso. Sta in mezzo alle nuvole, sta sul suo trono, è circondato da ragazze e da musicisti, e Louis Armstrong suona per questo, chiedo scusa, per questo sfaccendato re del cielo. E lo sentiremo suonare una canzone, si chiama You Rascal You, tu farabutto, e Armstrong appare in una mise imbarazzante, è praticamente seminudo con una pelle di leopardo addosso. È una cosa di un razzismo, è umiliante. Ma perché ho scritto ambiguità del razzismo? Perché è un'idea che io prendo da un grande studioso di Armstrong che si chiama Gary Giddens. E Giddens, che per primo ha fatto notare, dice: ma guardate bene il filmato. Armstrong, messo in queste vesti così umilianti e improbabili, in realtà trasuda una fisicità sessualmente aggressiva. È un ragazzo di 31 anni, è ancora in buona forma fisica. Ci sono delle inquadrature che vedrete prese di spalle, dove si vede il sudore, i muscoli della gola che si gonfiano e si contraggono per lo sforzo del suonare la tromba. Emana una potenza sessuale, una potenza fisica, oltre a quella creativa e artistica attraverso la voce e lo strumento, che rovescia completamente il cliché del nero seminudo leopardato. Cioè, tutto l'impianto derisorio messo su da un regista bianco, da un produttore bianco, di questi neri che fanno i buffoni nella messa in scena, viene demolito da che cosa? Dalla potenza fisica, scultorea, strumentale e vocale di Armstrong. I'll be tickled to death when you leave this earth, you dog. I took you for my friend. The way you bit me in the back was a sin. You ain't no good, Giraffe. As I said before, I'll be glad when you're dead, Giraffe. Boy, when you lay 6 feet deep, no more fried chicken will you eat. Oh, you know, I knew that'd break your heart. You look at that. What is it that you got that makes my wife think you hot for you old dog? Yeah, you bought my wife a bottle of Coca-Cola so you could play on her controller, you old dog. Anche questa voce così roca che rompe qualsiasi tipo di concezione estetica occidentale della voce. Rendetevi ben conto, qui siamo agli antipodi della concezione della bellezza occidentale della voce. Tom Waits non potrebbe esistere senza Louis Armstrong, ovviamente. Cioè l'idea che tu non solo canti con la tua voce, ma il bello non è la voce impostata, ma può essere una voce impastata di rumore, di qualcosa di più terragno. Questa qualità spettacolare e questo tipo di voce si esalta soprattutto laddove Armstrong riesce a dialogare con un tipo di voce completamente diversa dalla sua. Avrei potuto farvi sentire, sono fin troppo celebri, i duetti con Ella Fitzgerald. Ci sono, per chi non li conoscesse, tre favolosi album. Uno è il celebre Porgy and Bess, in cui Louis Armstrong e Ella Fitzgerald negli anni duettano. Ma io invece vi faccio vedere, anche se il suono non è buonissimo e vi chiedo scusa per questo, un video degli anni 60 in cui duetta col suo vecchio amico Jack T. Garden, un grande trombonista e un sottovalutato cantante, uno dei più grandi trombonisti e cantanti della storia del jazz, in un'altra canzone di Hokey Carmichael, Rocking Chair, che anche questa ha questa atmosfera così idilliaca del sud, della vecchia zia Hattie che sta nel cielo e, attraverso questa sedia a dondolo tipica, no, sul patio nel sud, che rievoca la vecchia zia e quindi delle memorie nostalgiche così. Non vi anticipo il modo in cui i due dialogano. Jack T. Garden ha questa pronuncia texana del sud molto strascicata, Armstrong invece fa la parte dell'oltraggioso, sono come il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, e cantano la canzone uno prima T. Garden con Armstrong che commenta e poi il contrario, e poi magari notiamo anche un piccolo dettaglio. E questo è un numero che hanno fatto molte volte. In his old rocking chair. In den späten 40ern ist Satchmo, wie er von allen liebevoll genannt wird, dann auf der Höhe seiner Karriere. Hier spielt und singt er mit Jack Teagarden und seinen All-Stars die Nummer Rocking Chair. Fetch me some water, son. You know you don't drink water, brother. But then you're right. My eyes already tan. Can't get from this gallows. What heaven choking, mother? Ain't going nowhere. You ain't going nowhere. Yes. Just sitting there grabbing. Grabbing at the blood round my rocking chair. Rocking chair. I remember dear old Aunt Harriet. I remember old Aunt Harriet. How long in heaven she be? Oh, about a year and a half, darling. Send me a sweet chariot. Oh, yes, yes, yes, yes. For the end of the my sweet Jerry. Oh, rockin' chair's got me, no, you got me. Oh, rockin' chair's got your father. And the judgment day is grabbing up on me. Tell about it, father. To my old rockin' chair. Looks like old rocking chair got you, daddy. I can't move a peg. Looks like your cane's laying down there by your side. Well, I use it for trombone sometimes. Is that all? But I ain't got no chin, father. Well, you better start running. Yes, but you're gonna tan my eyes. No, I'm gonna forget you. Now you can't get from this cabin. No, I know I can. No, father, yeah. But you ain't going nowhere. I don't get where I was going. I ain't going anywhere. Dig him, dig him. You sitting here grabbing. Yeah. You grabbing. Yeah. You grabbing. What? At the flies round your riding chair. Yeah, they sure about it. Look here, father. You remember old Aunt Harriet, don't you? Yeah, she cut out, didn't she? Yes, she did. But I knew her well. Not that well. Oh, yeah. But I never wanted to search. Yes, but you are chariot or chariot. Ah, just give me a taxi. Cause the time trouble both of us to see. Nobody knows the trouble I'm telling me. Now, old rocking chair, get it. Yeah. Now, rocking chair, get it. Yeah. Il musicista bianco e il musicista nero che si danno la mano in TV, è una cosa che si poteva vedere in Europa, in questa TV tedesca, perciò lo fanno. Altrimenti negli anni 50, ancora negli anni 60, una cosa del genere negli Stati Uniti non sarebbe stata permessa. Voglio vedere se riesco a farvi vedere un dettaglio. Penso di no. Va bene. C'è un punto in cui, a un certo punto, Armstrong dice a Teagarden, dice, ricordi la vecchia zia Hattie? E dice, beh sì, abbastanza, dice, ma l'hai conosciuta? Dice, beh sì, la conoscevo bene. E Armstrong si dice, dice, ma la conoscevi bene? E lui dice, beh, non così bene. Allora Armstrong gli fa la faccia e poi gli fa da da da da da da da. Quella frase melodica, è una presa in giro di Teagarden che ha fatto la gag sulla zia che forse conosceva fin troppo bene. Questo è un modo spettacolare di unire musica, spettacolo, reinterpretazione, tutto in un'unica idea. Ora, il tempo è tiranno, quindi io salterò, vi faccio vedere cosa saltiamo. Così è ancora più crudele. D'accordo, vi faccio vedere, vi dico cosa sono gli All Stars. Era questa, secondo All Stars era questo gruppo con cui Armstrong ha lavorato per tutti gli anni 50 e 60, importantissimo, con i due clarinettisti si sono scambiati a un certo punto, con la figura fondamentale di Billy Kyle, il pianista, perché sono il gruppo con il quale Armstrong ha prodotto alcuni dei più grandi capolavori della sua carriera. Diciamo così, io vi suggerisco l'ascolto di alcuni di questi capolavori, che qui adesso non ho il tempo di farvi ascoltare. Uno è il disco dedicato a William Christopher Handy e l'altro, che doveva essere uno dei clou di questa mattinata, era l'ascolto del disco. Ma sì, ma questo ce l'ascoltiamo, avrete 5 minuti di pazienza, al pranzo la pasta magari sarà scotta, ma forse un pezzo del genere andrebbe ascoltato, direi. Saltiamo qualche altra cosa dopo. Sì, allora ascoltiamo. Perché vi faccio ascoltare questa cosa? Perché in genere nelle storie della musica, diciamoci la verità, soprattutto nelle storie del jazz o anche del rock, ma certe volte anche nella storia dell'arte, siamo sempre lì a esaltarci per i grandi capolavori giovanili di questi artisti. Poi nel momento in cui arrivano nuovi stili, nuovi generi, per esempio il bebop, oppure negli anni 50 il rock and roll, ci dimentichiamo di quello che facevano i musicisti della generazione successiva. E spesso facciamo un errore colossale, perché per esempio Armstrong, anche se ha rivoluzionato il mondo della musica negli anni 20, alcuni dei suoi migliori capolavori li ha dati nella maturità, negli anni 50. Non mi credete? Ascoltiamo insieme una canzone di Fats Waller, a cui lui dedica un intero album. Tra l'altro io ho avuto la fortuna di diciamo così, interloquire col produttore dell'album, il grande George Avakian, che racconta come Armstrong faceva, diciamo, era parte attiva della produzione del disco. Hanno scelto insieme i brani, gli arrangiamenti, hanno discusso la scaletta. Era un musicista che voleva lavorare fianco a fianco con il produttore. E in alcuni di questi dischi, qui non lo sentiremo, ha esplorato per esempio le tecniche di sovraincisione. C'è una versione di Atlanta Blues dove lui dialoga con se stesso, canta e la sua se stesso gli risponde con lo scat. Quindi era apertissimo anche le innovazioni tecnologiche. Però vi voglio far sentire Blue Turning Grey Over You, che era un pezzo che aveva già inciso negli anni 20, perché qui sentite un Armstrong diverso, sentite un Armstrong attento al testo, e soprattutto sentirete una tromba come non l'avete mai sentita prima. Non c'è più, non ci può essere l'agilità di quando aveva 20 anni. Qui siamo nel 55, quindi a 54 anni, tra l'altro consumati sulla strada a suonare tutte le sere musica molto pesante, cioè un'attività, una carriera logorante. Quindi non ha più l'agilità di un tempo. Ma ascoltate il suono catturato dai tecnici della Columbia alla metà degli anni 50. Ha una potenza, una brillantezza e un'intensità emotiva che toglie il fiato. Questa la dobbiamo ascoltare insieme. Thank you.

used to be. So good to me. That's when I was a novel. Ba ba ba ba ba ba that, yeah man. Now you have your thrills in view. Found someone new, left me blue, turning gray over you. Che dire? Direi andare verso la parte conclusiva per mostrarvi due aspetti. Per chi volesse andare via, non voglio dire, non mi disturba, ma vi state per perdere il meglio. Così. L'uomo di spettacolo, abbiamo detto. Armstrong è stato più volte al cinema. Aveva un piccolo problema, aveva la pelle nera. Quindi Hollywood lo ha trattato nel modo in cui avete visto in Rhapsody in Black and Blue. E lui, che è stato uno dei più grandi rivoluzionari della storia della musica del Novecento, non ha mai goduto di una biografia su se stesso. Però Hollywood ha pensato bene, alla fine degli anni 50, di fare un film, per esempio su Red Nichols, un oscuro trombettista bianco però degli anni 20, in cui Danny Kaye interpreta la parte di Red Nichols e Louis Armstrong, l'uomo che ha creato la tromba jazz, fa la comparsata. Quindi rovesciando completamente, è come se uno facesse un film su Alvaro Vitali in cui Marcello Mastroianni fa, diciamo, la parte, fa una comparsata, senza aver mai fatto un film su Mastroianni. Allora, io vi faccio però vedere, siccome la cosa non colpisce, voglio dire, non è colpa di Danny Kaye, se hanno fatto un film su Red Nichols in cui Danny Kaye. Vi voglio far vedere l'incontro fra questi due uomini di spettacolo, anche perché il testo, anche se non capite l'inglese, è spassosissimo. When the saints go marching in, e i santi che marciano nel cielo sono i grandi musicisti, classici soprattutto, e jazz, dove i musicisti jazz fanno rima con quelli classici e sono molto molto divertenti. Il rapporto fra questi due uomini di spettacolo, Danny Kaye e Louis Armstrong, è travolgente. Non ve lo commento perché si, veramente si commenta da solo. Godiamoci questa clip. Arriva. Scusate, questo è il titolo del film, appunto, I Cinque Penny. When the saints go marching in, go marching in. When the saints go marching in, oh, yes. I wanna be, oh, yes. In that number. When the saints go marching in, and when the saints, oh, when the saints go marching in, go marching in. Who's gonna play on the day when the saints go marching in? Well, Louis, I'll explain that now. The mostest and the greatest, from the oldest to the latest, gonna play in the band in the great grandstand when the saints go marching in. Louis, what about Brahms? He laid no bomb. And Chopin? Solid man. And Bop, that great old massa? Yeah, that great old massa was a gasser. Yes, but Mozart the most with all he had. With the symphonies and operas and all that jazz. When the saints go marching in. Do you dig Rachmaninoff? On and off. Rimsky? Of course. Ravel and Gustav Mahler. Yeah, but don't forget Fats Waller. I wouldn't do that. List that's quiz that you can't resist. Yeah, yeah, put Liz on that list. When the saints go marching in. Here we go, Louis. When the saints, oh, when the saints go marching in. Look at this cat digging me. When the saints go marching in. Face and all. I want to be. And George Bizet, Chetre Bizet, Vuitton Soupe Machinet, and often Bach. Do you dig him, Jacques? Very often. Well, Frere Jacques, Frere Jacques, I dig you, Jacques, I dig you, Jacques, I dig you, Jacques, Massenet and Bizet, often Bach. How about Wagner? Die Wald. And Haydn? Who? Joseph Haydn. Who? Haydn. Well, let him come out. Paganini. Rossini. Toscanini. Puccini. Hachaturian. Gozantai. Thank you. And what's his name? Mr. Pete Lisa. And you know that Cascade Lisa. No comment. L'unico commento che possiamo fare a favore di Armstrong è che questo film non lo guarda più nessuno, anche se è uscito tra l'altro di recente in DVD, e lo guardiamo solo per questa scena. Cioè, è stato fatto un film su Red Nichols, non su Louis Armstrong, e noi lo guardiamo per Louis Armstrong. Andiamo verso la fine. Certo, abbiamo parlato della maschera Armstrong, dell'uomo che lavora con l'intrattenimento anche in maniera ambigua, che rovescia il senso addirittura da un'impronta indimenticabile a film di cui lui è solamente una comparsata. Allora andiamo rapidamente oltre la maschera. Chi era Armstrong? Cosa c'era dietro la maschera ridanciana? Che persona? Che idee? Allora, la prima cosa che noi sappiamo è che Armstrong era pieno di musica, suonava e cantava continuamente. A casa sua non è uno che dovesse avere molto tempo libero, Armstrong, però quando stava a casa si registrava per esempio sui suoi vecchi dischi o sui dischi degli altri, o sui dischi d'opera. Suonava continuamente, questa è casa sua. Date un'occhiata, poi ci torniamo, su quelle cose sullo sfondo, quei collage, ci torniamo fra poco. E collezionava nastri, nastri su nastri. Collezionava nastri su nastri, e tra l'altro tutti catalogati rigorosamente, di musica certo, ma di recente, diciamo una quindicina d'anni fa, a casa di Armstrong, che si trova a Queens, dove oggi c'è un bellissimo museo Armstrong, hanno trovato dozzine di scatoloni con quei nastri. Hanno detto, wow, ore e ore di musica inedita, fantastico. Aprono gli scatoloni, mettono i nastri e scoprono che ci sono solo registrazioni di conversazioni. Ma che conversazioni? Armstrong, siccome era appassionato delle persone, dell'umanità, quando aveva ospiti a cena, accendeva di nascosto il registratore e registrava le conversazioni. Poi le catalogava, barzellette zozze, storie sulla marijuana, amici, musica, musica classica, eccetera. Quei nastri contengono anche quelle conversazioni. Pensate che uomo. È stato un artista tutto tondo. Quando aveva tempo a casa, costruiva dei collage. A casa sua aveva una stanza completamente tappezzata di collage. È stato un artista di collage fantastico. Ve ne faccio vedere in sequenza rapida alcuni. Vi prego di notare i giochi anche umoristici. How to listen to music. Un uomo, lui, a fianco a due fans, abbracciato. Come ascoltare la musica. Abbracciato a due donne. Lui lì sulla sinistra, Swiss Chris, che leggete all'altezza del suo deretano, non sta lì a caso, ci torneremo. Swiss Chris era il suo lassativo preferito. Quindi l'ha messo lì. Artista con un senso dello humor pazzesco. Guardate che come gioca anche sulla copertina del nastro della scotch. Lui stesso faceva le copertine dei suoi nastri. Guardate questa quanto è bella. Alcuni di questi collage avevano carattere tematico. Qui lui che compare in un film con l'aggiunta di una didascalia, ritagliato in modo da dare un certo ritmo alle immagini. Questo era un suo collega trombettista. E c'è la musica lì con la scaletta. Guardate che senso del ritmo, della plasticità delle immagini. Qui prendendo da film. Continuo. E questa è una delle ultime. Lui stesso, moltiplicato, perché si suona, lui che opera singing con il Milton Combo, cioè c'è un gruppo di Milton e lui si è messo a cantarci sopra. Che ritmo, visivo. Questo ritmo visivo era messo al servizio anche del suo prodotto preferito, appunto, il lassativo Swiss Chris. E vediamo il lato, diciamo così, scatologico, perché è molto importante, dell'arte di Armstrong. Armstrong aveva creato un bigliettino da visita per gli amici. Lasciatelo tutto alle spalle. E addirittura, come dire, con una specie di avverbio, Swiss crislamente, capito? Cioè, come dire, fidati. Lui lo diceva, dice, sto sempre in viaggio, mangio male, mangio tanto anche. E c'aveva dei problemi di... Ops, chiedo scusa. C'aveva dei problemi, metto in tasca. Dei problemi, so che il tecnico ha perso 5 anni di vita. Chiedo scusa. Aveva problemi chiaramente intestinali, aveva scoperto, nei modi che vi racconterò fra breve perché vale la pena, questo lassativo ed è diventato un endorser praticamente del lassativo. Quel bigliettino che vedete a sinistra lo mandava a Natale a tutti gli amici, come il biglietto d'auguri. Cioè, è veramente pazzesco. E questo elemento scatologico è che una volta l'amico Jack Bradley, un fotografo, entrò in camerino e lo trovò così, lo fotografò. Poi gli diede una copia e gli disse, scusami, l'ho fatta, perdonami, non la faccio vedere a nessuno. E lui gli disse, stampala e mandala a tutti. La corporeità senza veli di questo gigante anche fisicamente della musica. Questo lato scatologico ovviamente fa da pendant con un'altra delle ossessioni di Armstrong. Armstrong è stato un grande trombettista, un grande cantante, ma pochi sanno che è stato uno scrittore facondo, ricco, continuo. Armstrong, se non suonava o registrava i suoi nastri, scriveva. Cosa scriveva? Innanzitutto dove scriveva? Ovunque, in camerino. Aveva la sua macchina da scrivere portatile, che si portava dietro insieme alla tromba, altrettanto preziosa, e scriveva, intanto riceveva ovviamente lettere dai fan e rispondeva a tutti. Scriveva lettere ad amici, abbiamo lettere d'affari, scopriamo l'Armstrong affarista, l'Armstrong che tiene d'occhio il suo manager per controllare che tutti i versamenti dei diritti e dei cachet siano corretti, l'Armstrong che si fa i conti di quanto guadagna, l'Armstrong che scrive agli amici, l'Armstrong che dona soldi in beneficenza, l'Armstrong privato. Ma scrive anche molte memorie, ricordi, è un uomo il cui flusso di memoria, soprattutto man mano che va avanti con gli anni, si fa sempre più potente, più ricco, quindi ogni volta che gli vengono in mente vecchi racconti, ricordi della sua vita ricchissima, soprattutto da ragazzino a New Orleans, lui li butta giù. Scrive veramente ovunque capiti, in un ripostiglio, dopo un concerto, prima lì dietro c'è la giacca del concerto, firma per i fans, appena usava di solito una penna verde. Va al ristorante, abbiamo in un libro, ho visto un menù di un ristorante stracolmo di sue annotazioni umoristiche, su ogni voce del menù. Un grafomane. E allora, questa è la grafia di Armstrong, di una lettera scritta a mano. Notate come usa delle maiuscole, per esempio, con enclosed is a tape, dove ci sono le virgolette tape e scritto in maiuscolo come a sottolineare l'importanza, that was recorded and recorded con la R maiuscola. Cioè c'è un ritmo. A real live show, scrive più sotto, è real, è scritto con la R maiuscola e sottolineato. Questo ragazzo non era andato oltre la seconda o la terza elementare. Però ha bisogno di scrivere ed ha un suo modo peculiare di scrivere. Anche quando scrive a macchina e si firma am ricely and chickenly yours. Siccome amava il pollo e il riso, invece di dire tanti saluti al riso e al pollo. And ricely and chickenly yours. Pieno di humor in ogni momento, di umanità, di profondità. Questa è una lettera scritta ad un'amica. Ora, spero che abbiate la pazienza con me di esplorare questo aspetto dell'Armstrong scrittore, perché voglio leggere con voi, e andiamo verso la fine, almeno un frammento di una sua lettera, perché è veramente merita, perché fa parte dell'arte di Armstrong. Viene da un libro che ha raccolto i suoi scritti. Potrete vedere anche come Armstrong scrive in maniera particolare. La traduco velocemente insieme, così vi faccio fare due risate e vi mando a casa contenti. Mia moglie Lucille mi ha introdotto a Swiss Chris, il famoso lassativo. Io torno a casa una sera che stava leggendo un libro scritto dal dottor Gaylord Hauser, che introduceva a Swiss Chris. Quindi quando siamo andati a letto, lei insomma, è arrivata a letto e ha aperto la sua scatola di Swiss Chris. Ne ha preso un cucchiaino da tè, notate tè, è sottolineato, vuol dire da tè, pochino, l'ha messo a secco sulla sua lingua, l'ha mandato giù con l'acqua, si è messa a letto e si è subito addormentata. Ora io l'ho studiata per un paio di notti, così il giorno dopo sono uscito e mi sono preso una mia scatola. Lei si era presa un cucchiaino da tè, ma con tutto il cibo pesante che avevo mangiato, io dovevo prenderne, notate, a little more, messo in corsivo, di quanto se n'era preso Lucille. Così io ho preso un cucchiaio di Swiss Chris, l'ho messo sulla mia lingua, allo stesso modo di Silly, di Lucille. È facile dimenticarsi a... it's easy to take, I forgot that I haven't taken it, ma... meno dimenticato, era facile dimenticarsi che ne avevo già preso prima. Ma in fondo non sono che erbe, diceva lassativo di erbe sulla scatola. Così ho immaginato che se lei ne aveva preso un po', era, non si trattava che di un lassativo leggero, that I've been taking, which was pretty good, e dunque era, andava bene, ma non così forte quello che prendeva lei, non era sufficiente per tutto quel prosciutto, fagioli, mostarda, riso che avevo avuto per cena. E così all'inizio mi ha fatto solo sputacchiare come un motore di barca. Capito? Niente di che. Così, ma è geniale, così I slept. Sono andato a dormire, ho dormito in modo veramente pacifico con Sweet Chris. Well, circa 5-6 ore, che andava bene. Quindi mi sono svegliato con a little rumble, con un piccolo rombo nel mio stomaco, che era un avviso. Andiamo da John, che sarebbe il bagno. Let's walk to the John. Non c'ho, era un avviso che diceva, io non ci ho fatto caso, sono tornato a dormire con la S maiuscola, che è stato per pochi minuti, quando è arrivato un larger, guardate come è scritto, rumble, con un rombo un po' più grosso, che diceva, tempo di Swiss Chris, non camminare, trotta, e non inciampare, per favore. Io fui abbastanza fortunato, sono arrivato al trono, con la T maiuscola, in tempo, e tutto all'improvviso è arrivata la musica, riff, arpeggio, biff, sapete cosa vuol dire? 2FF, cioè note fortissime. Suonava come, applausi dice, la band di Susa che suona Stars and Stripes Forever. Quando ritorna al channel della canzone, qui bisogna conoscerla, quando la band fa... Quello è il suono che lui c'ha in testa, tre volte. Meraviglioso. Mi sono sentito un po' debole. Così sono andato a quattro zampe a letto, su mani e piedi. Ho dormito per un'altra ora e mi sono sentito bene il resto del giorno. E ho mangiato come un cavallo. L'ultimo capitolo, promesso. Armstrong era davvero indifferente a quello che gli succedeva intorno? Era solo una maschera? Un umorista, un genio della musica? Che succede? Ok, scusate, ma c'è stato un piccolo problema. È veramente l'ultimo capitolo, sì. Vi dicevo, è stato davvero indifferente? No. Armstrong era un nero e come un nero aveva vissuto la discriminazione razziale sulla sua pelle. E non lo dava a vedere perché lui veniva da una generazione, nato nel 1901, in cui se un nero alzava la testa o la voce per dire qualcosa, veniva appeso a un albero. Quindi era meglio sopravvivere mostrando una maschera e intanto coltivare le proprie idee e i propri valori. Questa è una cosa che molti non hanno capito di Armstrong. La maschera a volte era una presa in giro, oltre a essere quella di un intrattenitore. Ed era un modo per mascherare appunto ciò che si è veramente sotto. Nel 1957 i famosi fatti di Little Rock in Arkansas. Tutti gli stati americani devono adeguarsi alla nuova sentenza della Corte Suprema dal 54. Le scuole non sono più segregate, bianchi e neri devono stare nelle stesse aule. Il governatore razzista dell'Arkansas non è interessato a questa cosa, non applica la legge. C'è una ragazzina nera che deve andare all'università e i bianchi le urlano dietro. Lei ha diritto di andarci, ma addirittura il governatore non la fa entrare. Il primo musicista nero, il primo artista nero ad alzare il telefono con ad un giornale fu Louis Armstrong, che alzò il telefono e disse: quello che sta succedendo è uno schifo. Io come artista nero contesto questa cosa, dico che il governo non ha le palle, disse, non ha guts, non ha stomaco, e io annullo la tournée che doveva fare in Unione Sovietica Nel 1957 annulla il tour in Unione Sovietica, si mette contro il governo degli Stati Uniti e denuncia pubblicamente il razzismo del governo americano, del governo dell'Arkansas. Nessun musicista, nessun artista nero l'aveva fatto. Poi Mingus scriverà Fables of Phobos, ma dopo. Armstrong è il primo a farlo. Da quel giorno l'FBI gli si mette alle costole. E anche grazie alla sua presa di posizione, Eisenhower è costretto a mandare l'esercito per far entrare gli studenti neri a scuola. Quindi Armstrong aveva una chiara percezione di quello che succedeva intorno e aveva una chiara idea di quello, di quella che era la sua coscienza politica. Devo, e questa è l'ultima clip che vi faccio vedere, devo all'amico Ricky Riccardi, che lavora al Museo Armstrong di Queens, questa clip che mi ha fatto notare lui. Armstrong suonò a Berlino Est nel 1965, il muro era fresco di costruzione. Lui sapeva cos'era successo. Se andate su YouTube c'è la conferenza stampa, a un certo punto tutto in tedesco, c'è qualcuno che gli fa una domanda in tedesco, qualcuno gli traduce e lui diventa improvvisamente serissimo e dice una frase significativa, dice cioè, ci sono cose che vorrei dire che io non posso dire. Ricordatevi il ragazzo nato nel 1901. Ed è meglio che non parli, dice. La gente ridacchia intorno nervosa perché pensa che abbia fatto una battuta, invece lui diventa scuro in volto. Questo alla conferenza stampa a Berlino Est di un nero che ha attraversato la cortina di ferro in piena guerra fredda. Dopodiché, la sera, canta un pezzo che aveva regolarmente in repertorio. Questo pezzo è Black and Blue, una canzone di Fats Waller, il cui testo, tra le altre cose, dice che posso farci se sono nero e blu, cioè triste. Dice, anche un topo scappa da casa mia, ti ridono davanti, si prendono gioco di te, che posso farci se sono nero e blu? Sono bianco dentro, ma questo non mi aiuta, perché non posso nascondere ciò che c'è nel mio volto. Non ho un amico, il mio unico peccato è la mia pelle, che colpa ne ho nell'essere nero e triste. È una canzone che lui aveva cantato tante volte. Guardate come la canta quella sera a Berlino. E con questo concludiamo. Thank you very much, folks. Here's one of our recordings. Beautiful number called Black and Blue. Thank you. cold empty beds, spring's heart is lead, feel like golden dead, wished I was dead. What did I do to be so black and blue? Even the mouse ran from my house. They laugh at you, scorn you too. What did I do to be so black and blue? Yes, yes, I'm right inside, but that don't help my case, 'cause I can't hide what is in my face. But don't you that those I say, how would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Quello che voglio dirvi è che Louis Armstrong non è un classico, è un radicale del suo tempo che è ancora con noi. Grazie. Grazie.